sostanzialmente almeno due lezioni da recuperare, ricordatevi, poi non basterà, quindi forse tre o quattro, perché altrimenti non riusciamo a finire il programma, non lo so per recuperare. Dunque, eravamo fondati l'altra volta. Capitoletto 16, allora andiamo al 17, e il 17 dovete, nel capitolo secondo, comincia subito dopo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ed è il capoverso che inizia così. Celle de Rosanette, la musée. Celle de Rosanette, la musée. On venait là le soir. Certo che non c'è. Avete capito che abbiamo introdotto la figura di Rosanette, Rosanette Lebrun, donna di costumi facili, diciamo così, e amante fra tanti, ma in questo momento di Arnaud, e una figura che fa da contraltare a quella di Madame Arnaud. Tanto Madame Arnaud è una persona, una beatrice, per così dire, una persona pura, chiusa in una sua orgogliosa e peraltro mirabile femminilità, tanto questa è persona di poco conto, una donna facile, ma con dei caratteri che non possiamo sottovalutare, sono caratteri di freschezza e di allegria che non ama da una. Quindi sarebbe poi uno schematismo sbagliato dire che questa è una donna, per così dire, quasi di strada, e l'altra invece è la donna dei sogni. Le cose sono più complesse. Primo, perché Madame Arnaud è una donna dei sogni, una donna Dio, ma proprio nella misura in cui è, come dicevo, una sorta di Dio oca, cioè in cui ha una sua bêtise, insomma, no? E questo ci chiama il discorso che facevamo, che il Dio che noi possiamo avere con la D minuscola nella vita è un Dio semplice, un Dio sciocco, un Dio verso cui ci si possa intenerire. Noi stessi nei rapporti sentimentali, insomma, è difficile che amiamo una persona se è un premio Nobel. Possiamo amare, starei per dire, anche se è un premio Nobel, ma sostanzialmente è la ricchezza della sua umanità, sensualità che ci affascina. Quindi lei è questo Dio oca, abbiamo detto così, Madame Arnaud. L'altra, per contro, nonostante la sua frivolezza urtante, è persona però che dà una voglia di vivere, una voglia di vivere, un'allegria di cui evidentemente Frédéric sente il bisogno. Frédéric, ricordiamoci, è uno strano eroe, un eroe moderno, un eroe irresoluto, ha bisogno di essere stimolato, non è un eroe pieno. D'altra parte uno si chiede sempre, ma quando uno ha a che fare con degli eroi pieni, siano belli, bravi, buoni, intelligenti, questi eroi possono mantenersi o no? C'è un caso, secondo me, della narrativa moderna, emblematico di un eroe pieno, nonostante quello che dice il titolo, uno che è intelligentissimo nelle cose matematiche, ma di letteratura e filosofia ne capisce molto, è bravissimo nella boxe, amatissimo dalle donne che lui si permette di disprezzare. Il risultato è che l'autore ne ha fatto un personaggio assolutamente insopportabile, e malgré lui, cioè lui non voleva fare un personaggio insopportabile. Si tratta di Ulrich, il protagonista, come sapete, del, come grandi romanzi del 1900, che è Ulrich, il protagonista di Molutopie, Uomo senza qualità. Libro grandissimo, pessimo romanzo, secondo me, libro grandissimo e pessimo romanzo, con un personaggio detestabile, uno dei più detestabili. Mi ricordo quando l'ho non letto, ma studiato per molto tempo, ho avuto una sorta di disgusto nei confronti di questo personaggio. Il nostro Dio, che può essere una donna, un uomo, può essere un bambino, deve essere amabile, deve essere amabile, per essere amabile deve avere delle lacune. In realtà Madame Blu ne ha appunto questo essere oca, in realtà, ma neanche Rosanetta naturalmente delle lacune, e le lacune possono far sì che sia amato. Questo amare qualcuno per le sue lacune è un bellissimo concetto, è un bellissimo concetto. Non mi ricordo una cosa che non c'entra assolutamente niente, ma che invece però vi dico ugualmente, molti anni fa avevo visto un film notturno alla televisione, e un giallo, ben recitato, mi pare di Duccio Tessari era l'autore, sarà stato 30 anni fa, si chiamava La morte risale a ieri sera. Ed era una storia truce, terribile, in cui una ragazza veniva bruciata viva, e il padre, che era l'attore, Raff Vallone, la cercava, alla fine capiva cosa era successo, poi l'assassino e gli assassini finirono stritolati nella lavatrice, una lavaccia spaventosa per fare la lavatrice. Però certo, in questo film, questa ragazza era una ragazza in qualche misura handicappata, una ragazzona grossa, semideficiente, no? E il padre diceva una cosa che, sono passati molti anni, ma mi strusse il participio è il passato remoto di struggere, mi fece molto pensare, perché il padre diceva ai sequestratori che l'avevano ucciso, diceva, ma quella era una deficiente, quella urlava, eccetera, eccetera, e il padre diceva, a me andava bene così. E in effetti è quello che noi diciamo dei nostri oggetti d'amore, quando ne scopriamo le loro lacune, ed è questo che ci scatena l'oggetto d'amore, non è tanto le cose positive, ma sono le lacune, sono quelle da cui non possiamo più levare le gambe fuori sostanzialmente, perché diventano segni dell'umanità della persona. Questo come preambolo alla descrizione di quello che fa Rosanetta. Ancora, ogni volta vi ripeto il concetto, come vedete, quando comincia a schiacciare l'acceleratore Flaubert nella descrizione di un personaggio, va avanti, implacabile, quasi un gioco, perché se voi foste dei letterati, siete qui anche, qualcuno di voi forse cercherà di dettarlo per la sua formazione personale, sarebbe quello di fermarsi, di coprire la pagina e di cercare di immaginarsi che cosa si può dire sulla wavelength che ha iniziato Flaubert per continuare la descrizione della fattispecie di Rosanetta, poi togliere la mano e vedere quello che dice lui e quello che avremmo detto noi. Questo è molto importante per capire Flaubert, no? Perché i personaggi, ripeto, sono sempre fortemente caratterizzati e questa caratterizzazione ha sempre un che, questo non ve l'ho detto, di comico. Tutte le caratterizzazioni hanno un che di comico se sono eccessive. E perché comiche? Ecco, perché la parola comico è la parola base per comprendere Flaubert, la parola base. Flaubert ha scritto un libro della sua, stavo per dire, tarda età, qui sono morti tutti abbastanza giovani, che si chiama Bouvard et Pécuchet, sulla stupidità umana. Comunque, aveva cominciato a scrivere sul concetto di comico. Lui richiede che la vita sia ben fatta, sia una buffonata, che la vita sia una buffonata. Questo mi fa venire in mente, sapete, sempre saltabeccando e mostrandovi le estensioni del mio sapere, mi fa venire in mente una cosa che diceva Pirandello, che forse non c'entra, perché comunque mi prendo il piacere di dirvi, di dirmi, a proposito, la parola buffonata mi ha fatto venire in mente, che sta scrivendo un amico Pirandello e dice: la vita è una ben triste buffoneria. Questa è una cosa che sarebbe molto piaciuto, quello che vi dico, a Flaubert. Dice: perché metà della vita la si passa avendo delle illusioni e uno va dietro a queste illusioni e sistematicamente rimane deluso e ci soffre al punto tale che a un certo momento decide di non farsi più illudere in modo tale che non soffrirebbe più allora e ci riesce. Non si fa più illudere da nulla, ma lui non sa che proprio questo non farsi più illudere da nulla è la peggiore delle sofferenze. Questo è un meraviglioso pensiero di Pirandello e un pensiero che sarebbe, devo dire, molto piaciuto a Flaubert. Allora vediamo questa descrizione che fa di Rosa Nette nella sua vita privata. Quanti anni ha Rosa Nette? Ecco, non è detto con precisione, ma tutti i grandi personaggi della letteratura sono fortemente legati al senso del tempo, dell'età. Certo, una persona giovane, ma quanti anni ha? 23, 24, 9, evidentemente. Sui 30? Non lo sappiamo, però la descrizione è come se ci desse i connotati anagrafici di Rosa Nette. Dice così in questo capitoletto l'ho segnato. Ah, niente, confronto tra Rosa Nette e Madame Arnoux. Allora, lui andava a casa di Rosa Nette. Avete già visto uno scorcio della casa di Rosa Nette con quelle con quei gingilli, quelle piante fatte in modo per stupire e per affascinare, l'abbiamo visto la volta scorsa. Quella di Rosa Nette, la casa, lo divertiva. Venivano là la sera, uscendo dal club o dallo spettacolo, prendevano una tazza di tè, si faceva una partita di tombola, la domenica giocavano alle charade. Rosa Nette, più turbolenta delle altre, si distingueva per invenzioni bizzarre come quella di correre a quattro zampe o di infilarsi in testa un berretto da notte. Per guardare i passanti dalla finestra aveva un cappello di cuoio, fumava delle pipe turche, cantava arie tirolesi. Il pomeriggio, per ammazzare il tempo, ritagliava fiori in un pezzo di tela dipinta indiana, le incollava sui vetri della finestra, impiastrecciava di belletto i suoi due cagnolini, faceva bruciare delle pasticche profumate, si prediceva la sorte e, incapace di resistere a una voglia, si innamorava di un gingillo che aveva visto e non dormiva e correva a comprarlo e lo barattava con un altro e sgualciva le stoffe e perdeva i suoi gioielli e sprecava il danaro e avrebbe venduto la camicia per un palco di prosceni. Spesso chiedeva a Frédéric la spiegazione di una parola che aveva letto, ma non ascoltava la risposta perché saltava subito a un'altra idea, moltiplicando le domande. Dopo degli spasmi di gaiezza, erano delle collere infantili. Una sognava, seduta per terra davanti al fuoco, la testa bassa e le ginocchia fra le mani, più inerte che una biscia intirizzita. Senza curarsi, senza darci attenzione, si vestiva davanti a lui, tirava con lentezza le calze di seta e poi si lavava con grandi fiotti d'acqua il viso e rovesciando la vita come una naiade che rabbrividisce. E il riso dei suoi denti bianchi, le scintille dei suoi occhi, la bellezza, la gaiezza, abbagliavano fra il ric e gli frustavano i nervi. Quasi sempre trovava Madame Arnoux che insegnava a leggere al suo bambino, o dietro la seggiola di Marc che faceva delle scale al pianoforte. Quando lavorava un'opera di cucito, un lavoro, era intenta un lavoro di cucito, era per lui una grande felicità raccogliere qualche volta per terra le sue forbici. Tutti i suoi movimenti erano di una maestà tranquilla. Le sue piccole mani sembravano fatte per espandere l'elemosina, per asciugare pianti, e la voce un po' sorda di suo aveva delle intonazioni carezzevoli, come delle leggerezze di prezza. Ella non si esaltava per la letteratura, ma il suo spirito incantava per certe parole semplici e penetranti. Ella amava i viaggi, il rumore del vento nei boschi e passeggiare a testa nuda sotto la pioggia. Frédéric ascoltava queste cose deliziosamente, credendo di vedere un abbandono di lei che cominciava. La frequentazione di quelle due donne faceva nella sua vita come due musiche, una bizzarra, trascinante, divertente, l'altra grave e quasi religiosa, e vibrando al contempo esse aumentavano sempre e poco a poco si mescolavano, perché se Madame Arnoux aveva sfiorato soltanto col dito, l'immagine dell'altra subito si presentava al suo desiderio, perché aveva su quel versante una maggiore facilità. E nella compagnia di Rosanetti, quando gli capitava d'avere il cuore grosso, si ricordava immediatamente il suo grande amore. Fa caso a una bellissima finezza che le due descrizioni, quella di Rosanette e quella di Madame Arnoux, non hanno solo una dopo l'altra, praticamente una inseguita in fila all'altra, proprio perché il lettore non abbia la possibilità di affissarsi troppo sull'uno o sull'altra, ma le senta, per così dire, mescolare, perché così effettivamente è nella mente di Frédéric: le due donne sono insieme. Difficile, o per così dire impossibile, essere innamorato di due persone contemporaneamente, è una vecchia questione. L'innamoramento è un qualcosa a senso unico. Ciò non di meno, si può amare diversamente, e specialmente quando si è in una fase di costruzione della propria persona, quindi quando si è giovane, si può amare diversamente due persone. Ai primi tempi in cui insegnavo, che erano tempi gloriosi di rivoluzione qui in Italia, dove la libertà sessuale veniva per esempio appresa con voracità dalle ragazze, e dove non si concepivano rapporti se non nel segno della massima trasgressione, avevo delle ragazze allieve, magari 3-4 innamorati alla volta, ecco, no, mi ricordo che ne aveva 5, e ognuno non sapeva dell'altro, e lei è molto fiera naturalmente di poter gestire questa situazione con cinque persone. Ma in realtà non era innamorata di nessuno, insomma. L'innamoramento ha questa strana caratteristica, cioè che vuole essere monogamo, cioè non è possibile essere innamorati di due persone insieme. E qui allora, se dobbiamo dare una risposta, come vanno le cose, insomma? Ecco, ma sapete, è molto difficile, questa è un'osservazione buona da fare, è molto difficile mobilitare. Potrebbe chiudere solo un pochino di più lei, per cortesia, quella finestra, perché per dare un poco più un'idea di ecco, grazie, di altro, solo di più tenero raccoglimento, diciamo così, no? no, vedo la piazza, sta passando il barista. E una delle parole, in realtà, la parola più usata al mondo, nel mondo sentimentale, la parola amore, è una parola difficilissima da usare. Difficilissima. Perché è per tutti la parola, senz'altro, più importante. Ma quando è e quando non è? E chi lo sa? Lo si sa poche volte, lo si sa retroattivamente, quando la persona non c'è più. Ma a volte ci si chiede se la stessa persona che non c'è più e che tu adesso ami appassionatamente tornasse dalla morte o dal luogo in cui si è confinata, le cose andrebbero bene completamente oppure magari non tornerebbero dei dissapori fra di voi, difficile dire. Questo libro serve proprio a farci vedere anche, per così dire, l'incompletezza della dimensione umana. La l'esaltazione a cui si può giungere e la mediocrità in cui si può vivere nella dimensione amorosa, no? Ama Madame Arnoux ed è attratto da Rosanet, non è così semplice, non è così semplice. Quindi la cosa migliore è, come dire, state contenti, diceva padre Dante, umane genti al quia, guardiamo quello che è, limitiamoci a registrare. Rosanet certamente è persona che gioca e vuol sentirsi giocare, vuol vedersi giocare, no? Molte persone non sono che conosciamo, giocano per non pensare, giocano per non pensare. Nelle coppie spessissimo questo gioco è molto importante perché evita discorsi più impegnativi, evita degli attriti, e allora si cazzeggia, come diciamo noi oggi, tra soli, perché è la soluzione più semplice. Certo, se uno dovesse con la propria amata o il proprio amato misurarsi in discorsi importanti ogni giorno, sarebbe una vita invivibile. E se uno dovesse misurarsi con una persona soltanto folatra, come appunto Rosanet, chiediamocelo, forse potrebbe essere più vivibile. Certo, lei cosa faceva? Lei giocava. Stavano insieme, prendevano il tè, giocavano alle charade, a questo lotò che sarebbe una sorta di tombola, no? E poi si metteva a quattro zampe. Chi si mette a quattro zampe a camminare in casa? Sono i bambini, sono i ragazzini, no? Quando più tu vai indietro nell'età, in fondo, più c'è bisogno di questo scatenamento lieto dei corpi. Oppure si infila in testa un berretto da notte. Se noi ci fermiamo qui, come vi suggerivo prima, lei che si infila il berretto da notte in testa o cammina a quattro zampe, e non guardiamo il resto, e proviamo a inventare quello che Flaubert avrebbe potuto o dovuto dire, non è difficile immaginarlo, no? Cioè ogni sorta di sciocchezza che faccia parte di infantilismo che possa dilettare o anche lei lo farà. E infatti guardate come Flaubert è conforme a questo. Il lettore ha letto che lei va a quattro zampe, ha letto che si è infilato il berretto, adesso guardate quello che fa ancora e ditemi voi se non è assolutamente conforme a tutto quello che ha detto. La caratterizzazione del personaggio, sempre seguendo l'esempio della commedia dell'arte. Tutti i personaggi di Flaubert sono costruiti come personaggi da commedia dell'arte. Ognuno fa il suo ruolo fino in fondo, no? Arnoux è persona mediocre, volgare, un furbastro, così, e cambia lavoro, un opportunista, senza sentimenti, e fino in fondo sarà così. Benissimo. Infatti, mette poi per guardare i passanti un cappello di cuore. Cose da bambini, cose da bambini. Sono da disprezzare, ma in realtà una parte di dimensione infantile nell'amore è essenziale. Insomma, le persone che cominciano vivono il loro rapporto troppo seriamente si annoiano poi fatalmente. Bisogna sapere scherzare. È un requisito sostanziale nella relazione amorosa è la capacità di scherzare. Quindi mette il cappello, fuma pipe turche e canta arie tirolesi. Tutto questo è ridicolo, eccessivo. Flaubert sa benissimo che sono cose ridicole e eccessive, ma sa anche che questi eccessi servono a caratterizzare il personaggio di Rosanetta, la quale appiccica dei pezzi di carta ritagliati, come i bambini anche qui, sui vetri delle finestre, e poi le bambole non, qui non se ne parla veramente, ma è come se le avesse, diciamo così. Avete presente quelle donne, quelle ragazze di altri tempi, ma forse anche adesso, che hanno le bambole sui loro sofà, come una sorta di continuazione della loro infanzia, no? Gli orsacchiotti, ma dappertutto si vendono queste cose qui, insomma. Sono adesso stato all'autogrill qui della Casilina e girando fra i banchettini c'erano degli orsacchiotti, dei pupazzi alla Walt Disney, e pensavo, ma quanti bambini ci sono? Oppure queste cose le compreranno anche non solo bambini, ma le compreranno persone che forse nella loro solitudine hanno bisogno di avere qualcosa di, no? Pensate a quelli che hanno delle macchine appese, dei paperini, dei topolini, li avete visti certamente, insomma. Cioè uno poi ha bisogno di una dimensione infantile della propria vita. E Rosanetta ci vive dentro, ci squarcia questa dimensione infantile, perché giustifica, diciamo un'altra cosa, giustifica la sua assoluta amoralità. In fondo un uomo maturo, una donna matura, ha una moralità, non ha tempo per gli orsacchiotti, ma se io rimango bambino posso farmi scopare perché voglio. Ecco il punto sostanziale, no? Bene. Allora, si prediceva la sorte, il carattere intellettuale, questa che si predice la sorte e mette il velletto, il rossetto sui cagnolini, poi i poveri neri, quindi a questi poveretti gli mette il rossetto ai cagnolini, insomma il livello intellettuale è discutibile, curioso, insomma, si predice la sorte e poi di tutti i gingilli, di tutti i gingilli, di certi gingilli si innamora, poi li compra ma non li usa, no? Questo è un po' quello che capita ai bimbi quando gli regali un giocattolo, non so se avete pensato, magari lo guardano lì per lì, poi questo giocattolo, questo capita nelle occasioni del Natale, eccetera, subito dopo non viene più usato, viene rotto, viene smontato. Questa inconsistenza di sé che si misura davanti a questi oggetti di piacere avrebbe fatto qualsiasi cosa per avere un palco di proscenio, cioè a teatro, per avere un palco davanti, proprio sul palcoscenico, ecco. A volte ci sono signore capricciose che hanno questi bisogni voraci che proseguono una vecchia capricciosità infantile. La moglie del mio maestro, il grande noto mondialmente Giovanni Macchia, era una signora di questo genere qua, ricchi tutti, ricchissimi. Una volta persa all'epoca 400 milioni con due assegni che erano stati rubati e non seppero che li avevano. Io credo che se adesso facciamo una domanda, per esempio, a lei, se lei perdesse 400 milioni con due assegni, saprebbe, si renderebbe conto che li ha persi. Ecco, Valentina è una persona che può, si renderebbe conto, anche perché forse sarebbero scoperti, non so. E allora questa improvvisamente, questa signora dell'alta borghesia napoletana, alta, colta, tutto in su con oggetti in casa, Picasso, oggetti preziosissimi, quando c'era Giulio Einaudi, il grande editore allora a Roma, e quando a Roma c'era soprattutto una società intellettuale come adesso non esiste più, allora ogni tanto starnazzava, c'è Giulio a Roma, voglio vederlo, cose esecrabili, quando questa signora era ammalata, aveva un tubo di gomma, era una brava donna, aveva un tubo di gomma che la univa al respiratore, di tanto in tanto io andavo al bagno e tenevo il piede sul tubo di gomma per prendere una piccola soddisfazione di togliere un attimo il respiro, era una vecchiaccia spalle, una delle piace spalle, però è molto legata a me, molto affezionata a me, insomma, però mi ricordo che questa rabbia con pistavo il tubo di gomma per un secondo legato al respiratore. E io sa sempre tanto buono, dovreste togliere questa illusione che sia un professore così buono, che passa tutti agli esami, ha capito? No, era solo un piccolo inciso. Dunque, e quando avete incontrato degli idioti che vi fanno una domanda e non aspettano risposte, c'è da prendervi a schiaffi. Scusi, dov'è la fermata del 500? Tu ti stai accingendo a dire dov'è la fermata del Belly Express, che è quello che arriva qui, se non sbaglio. O del 500 la persona se ne va via. Maestro! No, e qui capite perfettamente che la parola, che ben conosciamo tutti, è insostituibile. Ma mi hai incomodato e adesso ascolti quello che io ti dico. No, faceva delle domande ma non aspettava le risposte perché aveva il cervellino, come si suol dire, in acqua. Aveva il cervellino. E il fatto che avesse un cervellino, attenzione, avesse un cervellino di per sé può far sì che non sia amata. No. Perché questo è il punto che bisogna capire, che in questo libro è insegnato, che non siamo il cervellino. Questo è il punto della vita. Non siamo nel cervello, si amano le persone nelle loro inermità, nelle loro nudità, come diceva Cesare Pavese, nel loro nulla, non soltanto nelle loro cose positive. Però certo, stare con una persona che ti fa domande, perso il segno, che ti fa domande, non ascolta le risposte, e poi si lava, guardate questa scena che è meravigliosa, si lavava con dei fiotti d'acqua. Voi sapete che l'igiene intima, ragazzi, era molto diversa. Il bidet era considerato in Francia uno strumento di piacere, ancora a pochi anni, credo ci sia ancora un po' questa tetra consuetudine. In Inghilterra era considerato un bidet, ha già dichiarato il suo addio. No, vale retro bidet. Ma la Russia, al tempo del Re Sole, non ci si lavava per nulla. Tutti puzzavano in un modo spaventoso e i profumi servivano esattamente a coprire queste cose. Quindi, esattamente. E tra l'altro, se possiamo dire una piccola nota maliziosa, per il lavoro che faceva, avrebbe avuto bisogno di lavaggi, non so se lei ha fatto, riesce a intendere l'allusione sul film, che avanti frequenti, capito? Ma non in faccia, avete afferrato la seconda allusione sul film, chi non l'ha afferrata? Lei non l'ha afferrata, lei l'ha afferrata, anche se lei, io non so, lei segue anche l'allarme, questo è quello che segue l'ufficio, per così dire, l'altro invece per diretto, ognuno si marattella i coglioni con voi. Allora, è una casa che ognuno si martella i coglioni come vuole. Allora, lei, e mentre però si lava, vuol far vedere che è una bella donna. E allora si avvita, sapete, una bella donna che si avvita su se stessa per mettere fuori il posteriore e le tette, avete tutte queste cose, no? Adesso io essendo il tutto perché è una bella donna, però minimamente, però avete certamente la pubblicità, le scene, no? quelle pose fotografiche, e lei fa una cosa di questo genere. Ognuno fa le cose così. Dice che si rovesciava come una naiade, cioè come una ninfa che rabbrividisce il riso dei suoi denti bianchi, le scintille. nei suoi occhi, o scintille, l'altra non scintilla, qui è il punto sostanziale. Tu avrai una donna, spesso noi siamo convinti che la donna che amiamo sia la migliore del mondo, casta, pura, innamorata di noi, e poi un giorno troviamo una sgualdrappezza per 4 soldi a cui non daremo un centesimo, che però scintilla, e torniamo a casa, magari siamo sposati con bimbi. Lei ha bimbi? No, per fortuna. E uno con sensi di colpa inenarrabili comincia a consigliare, lo dico a lei perché lei invece mi può comprendere, spero, in questi pensieri. Forse li ha avuti lei stessi. Ha superato anche quella, superato anche questa soglia, è nella quinta età sostanzialmente. Ma in realtà sa, non bisogna fidarsi molto. Dice, ma come, questa ha gli occhi che scintillano, mia moglie gli occhi non scintillano, no? E qui è la difficoltà, cioè nel saper riconoscere quello che desideriamo veramente. Adesso, a petto di questo, tutto questo mi frustava i nervi, vediamo Madame Arlì, l'opposto. Cosa faceva Madame Arlì? Stava a insegnare a leggere al ragazzino. Guardate come è chiamato il ragazzino, non enfant, ma bambin. Bambin è un linguaggio familiare per dire bambino, quindi qualcosa di alto e nobile. Lo insegnava a leggere al bambino, eh? E poi cosa faceva? Seguiva la bambina quando faceva le scale al pianoforte. Sapete che seguire qualcuno che fa le scale al pianoforte è una rottura di scatole spaventosa. E poi ogni volta sbaglio, magari, no? Avete presente, di cosa terrificante, no? Chiude di esigere. Presente questo, eh? Sempre agli inizi. E che cosa fa? Lui le raccoglie le forbici. Allora, dall'altra parte c'è questa ragazza con cui potrebbe avere libero accesso a qualunque perverso o non perverso piacere. Dall'altra c'è questa e si limita a raccogliere le forbici. E però l'amore può essere questo. Come manifesto il mio amore? Io mi ricordo quando avevo 16 anni, ero innamorato di uno di 21, che potete immaginarvi per quanto io fossi molto evoluto, mi consideravo. E però io ero innamoratissimo di lei, cioè, quindi però non sapevo come dire. E allora ci incontravamo la domenica a messa, era una possibilità. E che cosa succedeva? Che io dopo le offrivo il cappuccino, e sta zoccola accettava ogni volta il cappuccino con il cornetto, e questo per me era il massimo della felicità. Quindi in questo fatto che uno può raccogliere semplicemente le forbici, si capisce che poteva essere tranquilla. E lei aveva una maestà tranquilla, una maestà tranquilla. E facciamo ancora queste notazioni. Le piaceva la letteratura? Ma no, è un'oca. Però aveva delle battutine puntute, aveva delle parole semplici, il quadro è meraviglioso, perché proprio una brava signora che ha delle parole penetranti da maestrina, che fanno capire che ha un minimo di informazione del mondo, quel penetrante e di una presa in giro assoluta da parte di Flaubert, no? Aveva queste battutine penetranti, però oltre alle battutine penetranti ho una specie di tendenza morfosa a perdere il segno. Ecco qui. A parte questo, che cosa amava? Amava le cose romantiche. Allora non guardate il testo, ma che cosa è una cosa che può amare una donna romantica? Cosa ha una donna romantica? Me lo dice lei? Lei è una donna romantica? No. Ah, non lo so. E avete tutte queste risposte stitiche. Chi è una donna romantica? Lei è una donna romantica? No. Madonna! Una donna romantica ama la natura, i fiori, il vento. Una volta sono stato oggetto di tentativi di l'accaparramento da parte di una donna che era romantica, è una cosa terrificante, perché mi parlava continuamente degli uccellini che ci portavano, no, non era una persona, dei fiorellini, degli uccellini, degli usignoli, è una rottura di lunghe mesi notturne, sposata, fra cui si sottraeva, diceva lei, agli abbracci eventuali del marito per parlarmi degli uccellini. Deplorevole, assolutamente deplorevole. Bene, la persona è così. O per esempio, una cosa romantica, sapete cos'è? È andare sotto la pioggia con la testa nuda. Rosa Netta l'avrebbe fatto? No, perché si guardava i capelli. Ma lei, che gli importa di queste lecce del corpo così futili? E allora le due musiche, la musica seria, grave di Madame Raffin e la musica bizzarra, strana, strampalata di Rosa Netta si mescolano in lui. E quando voi avrete i vostri adulteri nella vostra vita, capirete che una cosa molto difficile è gestire due persone contemporaneamente, perché sono due mondi che cozzano fra di loro e spesso voi siete, come dire, colpiti da questo cozzare di persone opposte che sono nella vostra mente. Ci vediamo domani.